Ciao a tutti, carissimi ascoltatori di Radio Big World. Io sono Elisa Elena Carollo e voi state ascoltando i Monologhi Esteriori. Questa è l'ultima puntata del podcast, come vi avevo preannunciato. Perché ogni viaggio arriva alla fine e io ho un sacco di altri impegni da portare avanti. Però se vi siete affezionati, potete sempre seguirmi sul mio blog dramaqueen.it o su tutti i social. Mi farà sempre piacere avere la vostra compagnia. Per questa ultima puntata ho deciso di farvi un regalo, e cioè di portarvi un'anteprima del saggio teatrale che farò a fine maggio con il mio corso di teatro. Se siete di Milano potete già tenervi liberi per il 29 maggio alle 20:30, perché ci sarà questo saggio al Teatro Delfino, con me e tutti i miei compagni di corso. Ovviamente sarà uno spettacolo corale, però vedrete anche me, se vi può interessare. Il tema portante dello spettacolo sarà l'attesa, che può essere di diverse cose. L'attesa del proprio turno allo sportello, l'attesa della propria fidanzata che è in ritardo all'appuntamento, o come in questo caso, l'attesa dell'autobus. Il testo è Fermata facoltativa, di Harold Pinter. E la protagonista, anzi, diciamo, l'unico vero e proprio personaggio, è una donna ferma alla fermata dell'autobus. Sta aspettando? O forse no? Forse è lì solo per cercare un po' di compagnia perché si sente sola? Non ha nessuno con cui parlare e cerca di intavolare una conversazione con gli altri che aspettano l'autobus, anche se ovviamente lo fa in modo tutto suo. Trattandosi di teatro dell'assurdo. È una signora che potrebbe sembrare un po' pazza, ma forse non lo è. Scusi? Come ha detto? Le ho solo chiesto se c'è un autobus per Shepherd's Bush. Nessuno l'ha pregata di fare insinuazioni. Ma chi si crede di essere? Conosco il genere. Stia sicuro che li conosco bene, i tipi come lei. Da dove viene si capisce subito, non c'è da sbagliare. Ne mettono dentro tutti i giorni di tipi della sua specie. Non ho che da denunciarla e farla portare al commissariato. Ho un amico che è un agente in borghese, lo sa? Lo conosco il sistema. Vi mettete lì, seri, impalati, facendo finta di aspettare l'autobus. Ma trovarsi con voi in un vicolo buio, beh, è un'altra storia. Sentito, signora, no? Cosa mi ha detto quest'uomo? Gli ho chiesto solo se c'era un autobus per Shepherd's Bush. Stia tranquillo, che i testimoni ce li ho. Bella sfacciataggine. Ti rivolgi garbatamente a un uomo e questo ti tratta come una scarpa vecchia. Ho di meglio da fare. Se lo tenga bene in mente, caro lei. Non speri che rimanga qui a farmi insultare in una strada pubblica. Scusi, signora. Avrei intenzione di portare quest'uomo al commissariato. L'ha sentito anche lei cosa mi ha detto? Mi vuol fare da testimone? Le riconosco subito quelle tipe. C'ero prima io. Questi cafoni di campagna non sanno neppure dove sta di casa l'educazione. Dei selvaggi sono. Ringrazi il cielo se non la denuncio. Ma dove è andato? Mi scusi, sa dirmi se c'è un autobus per Marbolaro? Ecco, questa è una piccola anteprima del testo che presenterò a maggio. Non l'ho ancora preparato benissimo perché siamo ancora all'inizio della preparazione dello spettacolo. Può essere che verranno fatte delle variazioni, che ci sarà un'intenzione diversa o che questa signora diventerà un personaggio un po' diverso. Però intanto l'ho voluto condividere con voi, anche perché me lo devo imparare a memoria, quindi ripetervelo mi fa solamente bene. Ho scelto questo testo per due motivi. Il primo è perché si parla di una donna che si sente sola e va in cerca di compagnia. E voi mi avete fatto compagnia in tutte queste 20 puntate del podcast e per questo vi ringrazio. È anche un po' merito vostro se non sono andata in giro a parlare con gli sconosciuti alle fermate dell'autobus. Il secondo motivo è che, dato che è un testo che reciterò anche a teatro, è un po' un collegamento tra questo mondo della radio, del podcast, e il mondo reale, fisico, in cui io mi esibirò in un vero teatro. Quindi vuole essere un invito a continuare a seguire qualcuna delle mie attività anche fuori da questo podcast, se vi è piaciuto. Vi ringrazio per avermi seguito e ovviamente vi invito a continuare ad ascoltare Radio Big World, che vi propone un sacco di altri podcast interessanti e con speaker anche molto più esperti di me. Può essere comunque che ci risentiremo, anche se in una forma diversa. Grazie di avermi seguito e ciao a tutti!